Sura 52. At-Tur. Il monte. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per il monte. Per un libro scritto su pergamena distesa. Per la casa visitata. Per la volta elevata. Per il mare ribollente. Il castigo del tuo Signore avverrà inevitabilmente, nessuno potrà impedirlo. Il giorno in cui il cielo tremante tremerà e le montagne si metteranno in marcia, guai in quel giorno a coloro che tacciono di menzogna, a coloro che si dilettano nella vanità. Il giorno in cui saranno spinti brutalmente nel fuoco dell'inferno, sarà detto loro: «Ecco il fuoco che tacciavate di menzogna». È magia questa, o siete voi che non vedete? Entrateci, che lo sopportiate oppure no, sarà per voi la stessa cosa. Sarete compensati solo di quello che avrete fatto. In verità, i timorati saranno nei giardini, nelle delizie, a godersi quello che il loro Signore avrà dato loro. Il loro Signore li avrà preservati dal castigo della fornace. Sarà detto loro: mangiate e bevete in serenità, ricompensa questa per quel che avete fatto. Saranno appoggiati su divani disposti in ranghi e daremo loro in spose le fanciulle dai grandi occhi neri. Coloro che avranno creduto e che saranno stati seguiti nella fede della loro progenie, noi li riuniremo ai loro figli. Non diminuiremo in nulla il merito delle loro azioni, poiché ognuno è pegno di quel che si sarà guadagnato. Provvederemo loro i frutti e le carni che desidereranno. Si scambieranno un calice immune da vanità o peccato. E per servirli circoleranno tra loro giovanetti simili a perle nascoste. Si andranno vicendevolmente incontro, interpellandosi. Diranno: «Vivevamo tra la nostra gente nel timore di Allah, ma Allah ci ha favorito e ci ha protetti dal castigo del soffio infuocato. Già noi lo invocavamo. Egli è veramente il caritatevole, il misericordioso. Ammonisci dunque, poiché per grazia del tuo Signore non sei né un indovino né un folle». Diranno: «È un poeta, aspettiamo che subisca qualche vicissitudine mortale». Di: «Aspettate, che anch'io aspetterò con voi». È la loro ragione che li induce a ciò o sono un popolo di superbi? Diranno: «Lo ha inventato lui stesso». Piuttosto sono loro che non vogliono credere. Producono dunque un discorso simile a questo se sono sinceri. Sono stati forse creati dal nulla, oppure sono essi stessi i creatori? O hanno creato i cieli e la terra? In realtà non sono affatto convinti. Hanno presso di loro i tesori del tuo Signore o sono loro i dominatori? Hanno forse una scala per ascoltare? Chi ascolta per conto loro lo provi irrefutabilmente. Allah avrebbe forse figlie e voi figli? Forse chiedi loro un compenso tale che si sentano gravati da un peso insopportabile? Possiedono l'invisibile in modo tale da descriverlo? Vogliono tramare un'insidia? Saranno piuttosto i miscredenti ad essere ingannati. Oppure hanno un altro Dio all'infuori di Allah. Gloria a Lui, Egli è ben al di sopra di quanto gli associano. Se vedessero cadere un pezzo di cielo direbbero: «È un cumulo di nuvole». Lasciali stare dunque, finché non incontreranno quel loro giorno in cui saranno folgorati, il giorno in cui la loro astuzia non gioverà loro in alcunché e non saranno aiutati. In verità gli ingiusti saranno puniti già prima di quello, ma la maggior parte di loro non lo sa. Sopporta con pazienza il decreto del tuo Signore, poiché in verità sei sotto i nostri occhi. Glorifica e loda il tuo Signore quando ti alzi, e glorificalo durante la notte e al declinare delle stelle.